Hola. Tutti morti siete, belli bei. Drommi, che mamma ha fatto le gnocchi. Graziano. Ciao Maria, bei. Tutto a posto? Ciao Marino. Mi copi, Mari? Sì, è di coppia adesso, grazie. Buonasera, ben entrato. Ehi, c'è da poco fa, ma non vedi nessuno, boh. E io ho acceso, sono mio sul canale 26, c'è stato gente da Spagna, Valencia. Ho salutato e sono in ascolto, tutto qua. Non c'è nessuno, c'è poca preparazione, boh. Sto girando, ma non c'è nulla di granella. Noi ci vediamo la prossima settimana, grazie, con calma. Ti faccio lo scudo e ti porto con la commissione, ti porto. Bene, grazie, rimango un po' in ascolto, dai, ci vediamo dopo, dai. Ehi, ok, va bene, mi sto guardando internet e le acce sul tavolo, se tra qualche uno, se no, pazienza, vai, tranquillo. Ehi, c'è un po' di QRM, c'hai addosso, grazie. Ti stai portando addosso un po' di QRM, va bene, già... Ci sentiamo dopo, dai, rimango in ascolto, adesso giro un pochino, dai. Eia, ok. Graziano, accesso Graziano. Dimmi. Vai, sì, pensavo che passeggiato. No, stavo guardando col cannocchiale il fiume Santo. A chi dici di... oggi ne dobbiamo lampare i fumaioli, lo devono demolire la centrale elettrica. E dove? A cosa? A Portatore? Ehi, a Fiume Santo. Oh, e beh, tu lo vedi con il cannocchiale? Sì, io lo vedo benissimo. Si vede anche tutto il mare da qua, si vede la Sinara. Tutto si vede, c'ho il cannocchiale, quello buono, e sembra due passi, sembra un occhi di una mano. Oh, e beh, fasciata andare. Cosa? Vabbè, ti fasciata l'anno. No, da oggi cominciano a cominciare le fumaiure, stavo guardando quello. Ah, capito. Sicuramente faranno... un ponteggio, perché qui c'è tutto di ferro e dissalderanno i bolloni, saranno tutti rugginosi e con la gruda poi li faranno a elementi, no? Quei fumaioli grandi che ci sono. Vabbè, certo che se no fa danno, capito? Sicché qui c'è a elementi se la fanno. E allora? Perché quando ho lavorato alla petrolchimica, che abbiamo demolito la girola, c'erano anche canne fumate e l'avevamo fatto così con la gru quando lavoravo da marcito. Antonello tagliava, imbragava e io la baciavo, no? Ho capito. Oppure in terra c'era Antonio, un altro. E tagliava giù su tutto a pisci, le lamiere, no? E una volta tagliava con un polpo, con l'arrugamio, pigliava e caricava in antarugamio e poi lo portava alla Ferrera. Allora c'era la Ferrera lì a Porto Torres, lì vicino. Uscivo da dentro la petrochimica e andavo alla Ferrera. Pensavo, scaricavo e ritornavo. Facevo travagliato roba di 6 o 7 mesi, unia di fissi chivi. E a me ne mangiavamo alla mensa della petrolchimica. Canti della falla in questa petrolchimica. E ha bevuto la facciatina. E mi sono rimasti due, mi sono rimasti un bel di ditti, capannoni, barracchi, pure barracchi di drummiani, intatte, fallite le ditte e avviati. E molte non le abbiamo demolite noi, ne hanno demolito anche altre ditte di Cagliari e di altri luoghi. Però un bel ne abbiamo fatto pure noi, Ferrareggio nei cito, bronzo, perché c'erano anche delle cremagliere in bronzo, ogni abito di cremagliera, chi ci varia un bel di dinà, ottone, rammo. Beh, chiaro, per i giusti chili, la lugrine. È un peccato però, un peccato perché, cazzo, la foca che era in Perù, un travaglio gatto che si era dentro il chimica, ti pare che erano 2000 operai. E un po' di gente mi travagliava all'epoca quando sono andato lì a demolire la Girola. La Girola è la prima ditta che aveva fallito e aveva venduto tutto a Marcello, il ferro vecchio, tutto quanto, Antovila. Ed era attiva ancora, però chi si aveva esarrato, niente, aveva licenziato a tutti. E veniva gente che travagliava, ma si andava in muscio. Sì, stava morto tutto. E poi per la ferriera, come sei tu giù, con chi si cazzava i capi, tu i ferri, i fatia, le chiviche, questo è il chiviche. A usare i viaggi che fa zia Radi dalla Girola, al minimo una decina di viaggi li facevo, ogni santa di più in Italia e più finita di chi sofferto. E vabbè, però già ve l'avevamo fatta demolire tutti un mese di anni che vi sapeva fatto, o la buona anima di Marcello, con questo travaglio, ma un bel mio. Sì, già lo credi, che poi era tutta roba buona ancora, capito? Non eravamo trasaldati, era un bel ferro ancora, quindi. E tutto lo ferro giuro, l'ottore, eccetera, eccetera, capito? I tubi, quelli lì, quelli buoni in acciaio, ce n'era, quelli li abbiamo tutti recuperati. A senso durato il magazzino sono giunti i ribassori a cuparacini a fare paletti per le recensioni dei danchi, e tutti quei tubi lì, reti e cos'è, quella roba lì l'ha venduta, anche i lamieroni grandi che recuperavamo, capito? No, quelli mica li buttava via, li portavamo in Viale Porto Torre, se va per Daneta. Quella roba l'ha venduta, è un bel falange, quei rubinetti grandi, miei, anche quelli, tutta la roba ora l'ha fatta in dinà. E beh, già lo qui via, chi ce l'ha tutto di là, Irani, stava incasciato, là, vabbè, stava incasciato di là, un peccato questo, ha fallito tutta la biotrochimica, Irani. I cristiani per la santigna per la travagliente chimica. Ho demolito lì anche a quella di Ottana, sono andata a demolire anche giù a Cagliari, a San Rocco, alla zona industriale dove andavo a caricare la benzina quando lavoravo all'Agipi. Anche lì ho lavorato per conto di Marcito, anche in Corsica, alla Zinara nei carceri a tagliare ringhieri, un sacco di roba, gli anni blindati, un sacco di roba. Oh, se bene, avete chiamato gli anni di ferro, dalla Sinara. E a pace, tagliando giù. No, l'ha rifatto in legno, in abete, di andanti, noi anni venti, no? Porta in abete, lo ferro si era venduto lo Stato. Niente, a patinaglia, niente, ero qui via. Aspetta, fra poco si va a vedere la Sinara e comincerà a costruire. A parte non si può costruire, sta a voi a Brasile, lungo andare ci vendi pure l'isola della Zirara, a Viro. Sì, erano gli avvindenti. E poi lì ci sono anche delle stalle, ma stalle che quando sono andato io erano complete, nuove nuove, tutti i siparete, le mucche, tutti i tubi in acciaio, chi si l'ha fatti tutti in dinà. Abbiamo smantellato tanto, specialmente alle bacconi, tutto, e le bacconi non l'ha demolito, no? Si l'ha tornato a vendì. Da un giorno che ha fatto dire a Marcito, da. Già lo credo, poi lì c'erano anche i silos per il mangime degli animali, capito, chi aveva i ghibi. Un bel bambino, e che vi faccio fatto, ma te sono bene viaggi da ghibi. A buglia. Però male non sarebbe tutto mai di buro. Cosa? Però male non sarebbe tutto mai di chi vi so. L'ultima volta che mi sono andato ne ho contato una diecina, un paio bianchi, due piccolini e uno era più grandetto, però era minore ma sì. E là ci sono normali, poi ho visto i cinghiali, mi sono andato di volte un paio d'anni fa a mare. Sì, mi sono per tutti, mi sono crabbi, mi sono pecori, tutto bene, già l'hanno fatto vedere già. In televisione e ancora ci sono bei animali i cinghiali si mangiano legge ma te ma i cinghiali a Rosario cosa fanno? Ne hanno 8 dalla Sinara andano a Sentino in paese a furugiare la mondezza se c'è ne mangia a chi mangia come ti mangia viene poco per i cinghiali noi che facciamo tutto il mangia a paese. E allora fanno quel pezzo di mare di attraversata e se ne vanno a Sentino. Ero con mora, devi ringraziare. E già andano a nuoto già. Se vai mi tu a Sentino in punta dove c'è la torretta. Mi puoi attraversare pure giù a piedi, mi. Ti fai una nuotatina nel punto appena più alto, ma cosa ti posso dire? Saranno 10 metri là. E poi cammina a piedi. Oh, lo sabbiani camminava sabbiani la nuda i cinghiali, non sabbiani. Cazzo. E sale la nuda pure, cazzo, se ne mangerete. Lasci di pure al televisore a videolina mio. Sarà 2 anni fa. All'anno pure fotografate. E infatti c'era un articolo su questi cinghiali, sul giornale anche. Che stavano invadendo il paese a Sentino. Magari veniva a Sentino da meno che tornavano alla Sinara però. E meno che tornavano alla Sinara che i chivi agattavano in blu che mangiano, hai compreso? A chi macchina? Chi tornavano a chi da? A chi da? Per poca provenda di mangiare. Vai vai. E un bel animale virani, tutti i mestieri virani su lungo, Catta la macchina, te la vediamo e si guadagnava anche la tornata a buio. Mi che ne conosceva uno io, va in muso, che va via praticamente di buio l'ergastolo ed era sopra la Zinara. Quando invece poi con il beneficio del comportamento e tutto, a una certa età ce l'hanno mandato. A Zarina chissà incasciato quando è tornato a casa sua. E più era pensionato e pigliava una buona pensione, perché erano marchette statali quelle, hai capito? Tutto il travaglio che ha fatto i Beh, si travagliava lì. Era l'assicurato e tutti voi, capito? Avevano tutti i diritti, capito? Io non so come si è, a chi l'ha già conosciuto di lui, ma te sì, che ha finito, da voi è giunto e è andato in pensione, e pigliava per la pensione, pure pigliava. Perché lì sono statali le marchette che diversa lo Stato, pure si ingarina e tu travagli. Sono buoni, so, capito? E poi si è pagato pure. Ehi, macellaio, il macellaio faceva quello che conoscevo io. Anche io ne ho conosciuto macellai che erano lì, però va, sono muti. Si conosceva io pure molto, no, beh pure. Certo, beh, Oh, dopo è Ferrari muro, io ero Giovincello, a Trapanico erano i muri, i miei muri trapagliavano. Erano tutti lì, erano i chivi, erano poco cupa i chivi. Catta. E tutto il rubino faceva i chivi a coso, a Mugoni, era una villa manna, una cartina manna. E rubino faceva i chivi, io andavo da... trapagliavo con bottiglie, da allora andavo con la sedetta a furgone e pigliavo rubino imbottigliato dai chivi, capito? Ma in tutti i carceri molti lavorano, perché a mammona è lo stesso, i chivi c'hanno gli animali, buoi, pecore, capre, iadini, di tutto anni. E un bel di niente che io quando andassi allo spazio a rigare magna la messa, quando travagliava la barilla, ne conosceva un bel di niente, buru niente di no, che mi diceva saluta mamma, grazie. Ed erano i travaglienni, chivi, capito? A sintare i balli di rufieno, capito? Un sacco di lavori facevano anche lì. E facili. Facevano baccalà pure. È facile raccontare che lo facciano ancora il baccalà. Un bel di travagli invasi. Confezioneggia neanche cestini. E li vendono a mammone, sì, però alla Sinara no, e beh, non c'è più nessuno, però quando veniva incarcerati travagliavano e facevano i burri un po' di cosa. Vabbè, ci sentiamo dopo, grazie, dai, va affetto. Ok, a dopo, va. Attenta, cuffetta. Dormita sì. Attenta, guffetta. Guffa. Tutta barridoccia sa dentro la mia sata. Mormito sì. Chi è? Chi è? Attenta, guffetta, che facendo? Che ci facendo? Niente, abbronzando mi stava al sole, quella tenda tutta assorta l'hai piazzata. Finita, vai tu a piazzarla. Già non dice a bucare un muro, e praticamente la punta non era la sua. C'è una punta da più città ci ho comparato, poi il trapone quello, era quello che è, cioè è quello che è. Ma sono un po' di bastana, comunque ci sono riuscito, dai. È poco a poco spostata, volendo la butto giù, siccome le tappe sono regolabili e la posso regolare. Devi che lì ci voleva il tassellatore, non che sul trapano di qui. Già si vede bene, da. Stavo scherzando, già vedersi già si vede bene. Però ricordati che per fare buchi così ci vuole il tassellatore, sicuramente lì sotto c'è l'architrave della porta, no? Della porta a finestra. Dunque avevo sempre un tassellatore, non un drabbano. Con un drabbano ti fate sciumare. Infatti mi ha fatto sciumare, ma sciumavo filubano. Ho finito le 9 più. Vabbè, dai, adesso te per la piazzata, dai, già va bene. La prossima volta mi comprerò il tassellatore. Ce li spendo 100 euro, o 150 che costa, però... grazie, anche la punta non è che ha questo granché. Ma il tassellatore ce n'è di vari prezzi, per usarlo così e quando ci trovi lavoro va bene anche uno di quelli economici. Che lo trovi anche 60 euro, massimo 70. Non è che a te ti serve che lo devi adoperare ogni giorno, per lavori economici. Quando ti servi sai chi vi dà, il burro di 13, barò, tre buchi di va, capi? Andava pure uno così. Perché... E lì c'è l'architrave e dunque col trappolo di base sciuta e poi e ti rovina anche i buchi col trapano, perché se tu insisti poi all'inizio ti si allaga il buco. Infatti c'è la laga in un buco, vabbè dai, comunque l'ho piazzata, anche merito di Maria, ma poco poco me, ma guarda è un TT spostata, non è proprio livello al 100%, ma volendo cosa faccio? La basso verso la parte della piazza, la parte sinistra, la basso appena appena la staffa è a livello al 100%, lo metto una stecca sopra, capito? Così mi prendevo il livello giusto. Magari Marina ha preso dal buco di su, a giù, ma ha sbagliato che... c'è un piccolo buco, bello che sicura che per quello, vabbè comunque dai, grazie, volendo posso mettere una stecca di legno e la mettiamo a livello. Perché tu la misura Ale terra dal pavimento Ale dico c'è l'altro livello Ale tendenza verso fuori il terrazzo e rimane, non rimane a livello la... La misura te la dovevi prendere dal muretto di su con il metro, mi, se sta lì vivo, a metro. Oh, quel metro come ce l'ho io, flessibile. Appoggi la linguetta al bordo dell'angolo di sopra, tiri il metro e fai il segno con la matita. E ti usciva perfetto orizzontale a piombo. O se la devi mettere una riga al metro il livello sopra e strisciare una riga con la matita, capito? E ti usciva la linea perfetta. E vabbè, grazie alla stata, Alla fine già ci siamo riusciti, se non ci riuscivamo ci avevamo un tecnico, la piazza. Aspetta un minuto che accosto il cubro a Paoletta, aspetta! Vabbè, se t'arrangia di aspetta che gli aggiusto questa scoppa un attimo. Cosa grazia? Cosa hai detto grazia? Ho capito. Aspetta un attimo che gli sto guardando la scoppa che non funziona. Io. E bello. Luca. Ehi, grazia, mi sto pulendo il pretosemolo, sto pulendo. Aspetta che non ti ho sentito, cosa hai detto? Che sto pulendo il pretosemolo. Ah, il pretosemolo. E oggi sta bolletta mi cazzo di. Prima me ne vede con il cubo, la vado mai mi così non roccia a faccia. La faccia la cosa da un terrazzo. Trita il pretosemolo bene, mi, cosa devi fare? Pissa che ricava la dondo. Oh, cosce di farfalla arrosto. Buone, qual è? Da un po' sono senza mangiare. Ah, sai dove ho visto il zimino? Lo zimino già pronto in vaschette. Beh, dimmi bianco, non ne ho preso. Oh, non l'ha voluto maletta a pigliare. Ma cos'è? È MD quel supermercato, Paolo? Di fronte a Paul Gardner, quel capannone che c'è, MD. Lu! Non ho capito, grazie, cosa hai detto? Ho detto, quando siamo andati, Paolo? Avanti ieri, cosa ieri? Ho visto lo zimino in vaschette all'MD, vedumi, bianco. Ma non ti ho capito. Ho visto vendendo nel supermercato MD lo zimino. Ah, io già non lo amo, non mi interessa. Ah, non ti piace, invece è buono. Io gli viro da razza, mi tazza nel... l'ubragini. Oh yeah, fa un profumo. E non manco Marina ne mangia. Ma sì, Marina penso di sì. No, non mi attira grazie a brutto, ma non... Qua mi piace, sai cosa, chi tu più tena, lu. Non guarda il guru, l'altro. L'arricciato, quello bianco. Si conferma. Cosa? Si conferma. Aspetta un attimo, senti. Cos'era? Un elicottero? Sì, è un elicottero. Sto guardando la paletta nel giardino botanico, sta portando qualche fiore. Comunque, dove l'hai presa quella tenda, lui? Da Bricoman. Non c'è la righe, ho solo i colori uniti c'era. No, c'erano colori più chiari, ma quella lì non fa entrare il sole. È più, come si dice? Più scura. Va bene, grazie, va, è bello, proprio di lusso, bella bella. Che colori ci sono? 119. No, già è bella, col cassonetto mi sembra, così. Via. Vedi, così d'inverno te la ripara. Ma certamente, o se prima di sci, o se girano dentro, forse è un bel vento, a pigiarla, chi la mia e non mi. L'ho lasciata aperta, ha fatto vento, poi sono arrivato, la stavo staccando e mi ha pigiato un braccetto ed è piegato. Adesso me li devo comprare nuovi e li vendo la coppia quindi. Ehi, vabbè, dai, già andava bene, grazie. Pensate che non passa l'usore. Già va bene, ma anche d'inverno quando c'è quella pioggia sottile. Da quella aprile se per caso fai qualche cosa lì, capito? No, d'inverno no, se a vedere, adesso un attimino. C'ho anche la scala, mi sa che me la porto a casa. E da dare una pulita, perché ieri la devo aspettare con le mani. Però già è bella, dai, già va bene. Già è bella, già la vedo bene bene. Da camera da letto, anche dal salone, anche da qui dal terrazzo. Ma terrazzo sì adesso? No, io sono a cena dal balcone, ma letto nel terrazzo. Mi senti a facci, la vedi, fagli di mano Paoli. Guarda che ti fa di mano, guarda se la vedi. Sì, ce la vedo, ce la vedo, sì. Ce andava bene, dai. E io sono nella finestra. Qua mi devo mettere la porta a finestra. Io. Devo andare alla bricco, devo pigliare le misure. Fai una bella. E metto la porta a finestra. Ma sì. Dice, non ti vedo a te. Vedo a Paoletta, sento a Paoletta che parla, ma te non ti vedo. Perché c'è la finestra, aspetta che salto, da, cioè salto attraverso la finestra, che c'è la scaletta per passare. Però c'è il giramento di balle, se la cagano gli uccelli, mi su, che te ne imbruttali. Lo so, anche la mia, qua già me la sporcano gli uccelli, ma io la pulisco, poi in inverno, prima di chiuderla, la pulisco piano piano, la bacio di più. Perché la mia abbassa di più, pulisco tutto il pezzo che rimane fuori e poi gli metto un nylon e l'avvolgo insieme alla tenda. Così rimane più riparata, anche se rimane sotto la veletta la mia. Io lo so, ma già è bellina, è passato uno straccio Marina, adesso la chiamo e glielo faccio passare. Praticamente se tu guardi alla mia sinistra con la staffa lì, la posso abbassare poco a poco, io abbassando quella staffa, perché l'ho messa tutta su al massimo, e se ne torna dritta dritta. Già lo so, già è bella, già sono comodi, ma c'è attenta in ferro. Già lo so, poi in terrazzo abbiamo anche l'antenna TV, perché su non si può mettere. Perché non la puoi mettere? Perché c'è più calata di filo qua, pochi metri di filo, là, saranno, vabbè, ci sono spezzettati. Ora questo qua, c'è cioè questo che va in camera da letto, e l'altro che va in cucina. Le portate si vedono, su o giù, le portate si vede cosa di Napoli. Perché sono V e U, poi due uscite. Poi lì se devi controllare qualcosa ce l'ha portata di mano, io invece si diva beh dall'antenna per dire per cambiarmi quel cappetto che devo cambiare, si deve usare per essere un'altra gabbessuglia. Lo so, vabbè. Sai mi porto via la scala, dopo. Così come si dice? Domani si verrà a posto di mettere l'antenna a mamma pure. Gliela piazzi, a chi la serve vuoi piazzare l'antenna, domani a Mazzano, tanto Marina ci sta lavorando. No, ma volevo forse domani mattina da fare una cosettina, una cazzata. Poi quando rientro, se non c'è troppo caldo, sai che gliela piazzo. Ma anche se c'è caldo c'è l'arietta e già si può travagliare ma stesso. Sì, ma faccio travaglia a Dio, pure senza arietta, da muri ponendo un catramo, anch'io, giù a Platamona, nel capannone, a te grebava. Non ho capito, che cosa? Quando ho messo il catrame giù nella falegnameria, in tutti e due capannoni, in piena estate, tra l'usori e Rugannello, un Niagarori, veniva di sciulliti, mi si collavano i piedi al catrame sul capannone, di quanto era caldo e sciolto il rotolo del cartone. Ma mi sta per quello? No. Sto mangiando questi, si chiamano? Tortiglias. La salsa piccante. La salsa piccante e mezzo bicchiere di vino. Che è buono. Abuglia. No, io piccante c'ho il vermicelli, il formaggio con il verme. E c'ho... già è buono. Però non è che me lo mangio ogni vino. Adesso l'ho mangiato due settimane fa. Stasera se ne giocano mi mangio un paio di crepe. E buh. Ma chi mi se ne mangio un bel pazzo di male. Cioè, a me mi fa male. Di mangiare crackers integrali. Io se non sono integrale, sono normale, me ne mangio lo matrice. Ma se non me ne mangio un pacco, me ne mangio un pacchettino massimo. Rispalmo il formaggio, quello con i vermi. Ma sta pure un polistirolo, amico. Allora senti su Gian Maria, ha detto ci sentiamo più tardi e non si è più sentito. Vuol dire che è andata a mangiare, passa al forno. Allora, non ribiate, la passa al forno. Buono. Luca ci ha fatto nell'acqua scooter il silenziatore, non ha visto cosa l'ha puto. Una lattina di birra, da silenziatore. L'ho visto. Portare la pesca. E allora, ma dici che aveva curri di più. Così non si disturbare i pesci, le squalli. Allora, via. Ieri sera ho sentito attore, due minuti, avvicino per la lisciura e a Sanrado. E anche a Marino poc'anzi ho sentito. Però stava facendo cosa? Spazzolando. Tore già poco fa. No, Tore ieri l'ho sentito. A Marino se ho sentito, però era nell'altra radio spazzolando e mi ha detto che non veda nessuno. Io ho dato la radio, mi arrivo una settimana. Ma il PMR? No, un baracchino modificato. Cosa, non mi compare che più io, cosa cazzo non mi fa, sennò per un'anima. Infatti devo farli, adesso vediamo, lo miglioro dai, tipo, me lo faccio cubicare da Luca, come lo fai? Ragazzi, ne compare, veniranno un 6 o 7, lo mese passato, ma hanno visto non hanno venduto e ne hanno più ritirate e che hanno compare già più, ma i giovani di oggi non era fottinuta, vanno il cellulare, vanno tutto, e c'è stato il baracchino, no? Questo qua è modificato, accolto, capito? Non è semplice, vatti regolabili, VIP colto. Ma guarda che quello che c'ho io, nuovo, che ogni tanto lo accendo, quello c'ha tutto. Vuoi che no, non mi appento, se no c'ha tutto, capito? Ma non mi interessa, ma intanto, ma paghi sì, siamo due Zurichi. Dati che è travagliata, voglio venire. Vabbè. Chi hai capo? Io, tu, Gianni Maria, poi c'è Squallido, Marino, l'uomo della campagna, chi chi entra la sera, secondo che ora è, e la briga, non per nessun altro. Però da quando ha imparato a cubicare i cubicini, che già è che si vende. Luca si cubica già a Rugignarma. Lui, quel ragazzo, si inventa lavori, adesso c'ha, paga poca energia con tutto l'impianto che si è fatto. Allora, anche a lei ne la vende. E allora, a maggio se mi la comparavo a filo continuo. Vabbè. Cioè, vabbè, già fa. Io me lo faccio. Sì, non pure i 20 nocchi dei pannelli. Ma forse funzionava pure la voce con i pannelli. Ma non mi sta questa cosa. Ui. Capo se lo fai. Bisogna vedere che dura tanto. Allora, quello è un sito che ho guardato io, che ho telefonato, mi dava 20 anni di garanzia, 20 anni, che erano predisposti per 30 anni quei pannelli lì, che mi ha detto quello. In effetti durano bene, le intemperie solo possono rovinare qualche cosetta, però sono predisposti a cambiare i pezzi. Dunque, ti durare una vita. Grazie, ma fai che cosa adesso? Spendi 30.000 euro, come li ha spesi la chiesa vicino a casa. E poi, cosa adesso? Ti dura 30 anni e poi, lo so, in 30 anni non paga. Non è che ce li butti, non ci vuole naturalmente un po' di manutenzione. No, volevano cambiati, Beh, logico, tutte le cose si rovinano, mi Luca. La manutenzione ci vuole. Per dire, io il serbatoio qua dell'autoclave, quanti anni vive il serbatoio? 20 anni, 20 anni c'era. Me l'ho voluto cambiare io, se no era nuovo il serbatoio. Ed era sempre coperto, io lo coprivo col telo. Però l'ho voluto cambiare io, perché intanto dovevo spostargli la zona, perché prima ce l'avevo sotto la finestra, adesso ce l'ho a un fianco. Vabbè, tutte le cose si rompono, le macchine, tutto. E poi dato che stavo facendo, ho cambiato anche tutto il pezzo del tubo, con i rubinetti, tutta quella roba lì, eppure non aveva nulla, però erano i 20 anni e adesso è tutto nuovo. Una volta che ciambi, non che pongo un pezzo nuovo e un pezzo vecchio, io ciambo sempre tutto nuovo. E 20 anni sono 20 anni. Poi dipende da dove sta la cosa. Se ha coperto ti dura di più, però se ha cabassoni, ha cabaeva, ti dura di meno. Ma io ogni anno lo pulisco il serbatoio, lo svuoto, adopero l'acqua, poi apro il tappo e lo pulisco dentro, lo lavo tutto bene, e con la varettina, tutto bene, tutto disinfettato, e poi lo richiudo e lo ripieno, lo sciacquo prima bene. Capito, non è che vado al serbatoio e non sono con 20 anni senza burino, non sarai macco, no? Adesso l'altro giorno sono riuscito a cambiarmi il filtro e me l'ho cambiato. Lo so, grazie, purtroppo Graziano, ma stavo te lo mangi, grazie. Sì, ma ancora è chiuso. Doveva fare l'insulinanna, però evidentemente c'è il figlio, gliel'ha fatta il figlio, perché non mi ha suonato. Mi ha già fatto a misura io. E te no, dopo mangio. Ma ieri sono venuto tardi, ieri alle poste. Sono venuto tardi, sono andato all'MD. E mi ho preso un bel polletto arrosto, lo sai è buono, saporito, e poi pure un po' con la giornata, 3,90 euro, così. Quello e le patate ho preso, le patate cucinate, no, condite. E avevamo mangiato solo questo, prima non ho fatto. Ma tu, mi lo mangiare che cosa si chiamano i maletti? Tortiglia. Tortiglia. Con la salsa piccante. La salsa piccante, buoni. Già sono buoni, oi. Mio, ma giusto, mal di massa, a due volte, se non riesci da raso in bagno. Calotti non lo so, a mezzogiorno mi ha mangiato la minestra brodo, le melanzane alla parmigiana, le zucchine ripiene, un pezzo di parmigiano, poi mi ha mangiato, cos'era quel cosa mi ha dato Debora? Le pizzette, pizzette che ho preso ieri e già sono buone. Vabbè, che se te magna? Perché la sera bisogna fare l'avvertimento, non te la magna. Da prima ci ho mangiato chissà ancora fiori di macchisio, impari alla cicuria, buona, un agabo di cicuria. Un pochettino di sale e l'uso d'arriva. Poi mi ho mangiato un dolcetto e il caffè. Ciao Bacchici! Ti hai mangiato un porcetto puro? Capito? Buonasera a tutti e due, bene ascoltati. Così è grazie, ti hai mangiato anche un porcetto? No, il porcetto no, i polpi alla marinara, gli ho preso il peperoncino, e cosa vuoi mangiare? Dimmi, devo mangiare, mi dica dottore. Basta così, hai mangiato troppo, vero? Luca! Mi lascio Bacchisio, mi è bello Bacchisio, un giorno ho sentito, come stai? Luca, tutto bene, tutto bene. E anch'io da parecchio non sentivo. No, accendevo, arrivavo tardi. Accendevo, non c'era nessuno, neanche un'anima. Ieri ho acceso da presto. Nuda, tutto buio. Ho capito, dai. Da un po' non ti sentivo. Qui noi stiamo iniziando a cenare. Magnete. A Lumacchina dove ci stai, Lu? A Lumacchina sono già andato, sì. A Lumacchina no, ancora non sono pronto. Però c'è chi sta andando e le sta facendo. Le macchine non sono pronte. No, c'è quel tipo che si mette nella rotatoria lì sulla Budi. Fa ogni mattina a raccogliere lumache. Lumaccone sta facendo. Dice che in un'ora ne ha fatto 6 kg. Ha detto, ma allora con intera ghiaia, beh. Però non ti dice dove. Io ne ho fatto 6 kg no, ma almeno 4 kg li ho fatti. Adesso sono rimasti un po', li ho già promessi alla zia di Marina. E dunque li hai fatti già anche in soldi? Ma come stai vedendo, a dozzine o a chili tu? Vabbè, alla zia di Marina gli sto facendo una specie di regalino, là, chiamiamolo così. E infatti, imparentato. Imparentato va bene. Perché quello della rotatoria l'ho chiesto, ha detto a quanto stai dando? A 2,50, ma ho detto strano, 2,50 la dozzina e non la chilo, 2,50 la dozzina. Ecco, io gli ho 2,50. Infatti li ho già venduti a mio cugino, però me li bisogna mettere di manzano, banda, quella vita. Certo, se scende la brina, se non scende brina, rutta, non venuta che va, oppure se c'è vento non c'è niente da che fare, capito? Avanti, grazie. E allora, quando scende l'umidità e vai l'indomani a mangiare, gli anagati, se c'è vento no, anche se fa, no, non è troppo, ma se scende la brina, l'umidità e anche il manzano la gatti sempre a chi inocro ma è uno che anda a falli e ogni santa dietro si esce a risicchio e mezzo si esce andano in macchina e verso l'onde si torna in uno con un cognolo pieno capito mi hai capito sì, buonasera a tutti. Ciao Tore, ben sentito. Vai, Macchi! Yeah, ciao, autore, buonasera, viene scocciato. E Beto, come la va, come la va? Cosa vuoi, io mantiamo, come te sempre. Ero impegnato, mi dice libera, mio figlio non poteva entrare in oggi. E va, oggi sono libero, da oggi. E da gli sei passuta. Io attore mio, a buona leva di storia, Beto. Sì, l'hai sentito. Ma già dirò. Ogni tanto ti suono, ho visto sotto, eh? E via da te, che puoi suonare. Ma non mi riconosci in macchina, sì? Sì, e chi no? Ma zitto, via da te che puoi suonare. Non gli ha dato, non sempre, eh? Eh? Non gli ha dato, non sempre. Andiamo bene. Oh, da domani, preparatevi a lungaggio, voi. Ma io ho portato il coso, un frigorifero mi sono portato in campagna, mi si pongo dentro. Ero preco? Un capo e il bidi e cammini. Sì, andà bene. Ehi, grazie, fa zigallo. Domani fa zigallo. Comunque, Bacchi, grazie, da sorpassato. Grazie, non mi ha sorpassato. Ah, che ti è passato sopra? Con io, Bacchi, tu non puoi competere con le mie frecce. Ehi. Mi abusi che grazia perché sono giù e sono andato con l'antennino. Se vado su che metto l'antennone schiaccio a tutti, anche l'Italia. E poi lì sei piccolo e nero come Calimero, vero Luca? Sì, mi sto mangiando i bastoncini con la salsa piccante. Sì, Gisella. Buoni, buoni, un goccettino di vino, là. Già non fa male, meglio della sigaretta già è. No, vero grazia, vero, vero Bacchi. Sigaretta, lampastina, buttala via la sigaretta che quella è, ammazza l'uomo lentamente, capito? E quella è, lentamente distrugge l'uomo. E, gli esseri umani, dai, non solo l'uomo, anche le donne. Capito? Toro invece ne fuma e ne si arrabbieggia. Infatti, è così. Beh, ragazzi, chiamatemi socialmente a me. Io vi saluto, vi do la buona sera a tutti quanti. Ciao Bacchisio, ciao Graziano e ciao Luca. Ok, ciao a tutti. Ciao Tore, buona cena, domani se coincide, vai Luca. Ehi, ciao Tom, salutoni, buona cena e buon tutto. Avanti Bacchi. Ehi, ciao Tore, buona serata, buona cena, buon tutto, saluto la signora. Se coincide, bye bye. Avanti Graziano, Marino non si è sentito oggi. Poco fa l'ho sentito, però mi ha detto che c'aveva l'altra radio accesa, stava spazzolando, non veniva nessuno, dici? Qualche continentale sentiva, ma lontani, e niente. E poi del resto, nella 27 non c'era nessuno, e nulla che fa. È andato a spazzolare, lui va a spazzolare, già ci sentiamo alla prossima. Ehi, ehi, è andato a spazzolare. E tutti i giorni che spazzola lui, è andato anche a spazzolare lui. Capito? A spazzolare è andato. E quello è colpa è Don Manzano. Ma chi comunque non fumo, sono 11 anni che ho smesso. Era per dire, era meglio una tazza di vino, senza abusarne ovviamente, perché con tutte le cose che ne abusi fanno male, no? Una tazza di vino e metti una sigaretta. Oh Luca, io ti ho contato tutte le tazze di vino che hai detto, ci sei arrivato a 6 tazze di vino ad animare, vero Bacchi? Ah vai, ne ha subito, non manco una tazza. Oh, mezzo litro, infatti, mezzo litro, allora, no, grazie, una data, vabbè. Ehi, Marina, però io ho contato tutte le tazze che ha detto, tutte le volte che l'ha detto, è arrivata a 6 tazze ed è già embriaco. È già iniziato a dare i numeri. Vabbè, cosa no, vabbè, dai. Allora non lo vuole parlare nessuno. Dai, cenando già va bene, dai, non siamo di quelli che noi abusiamo. Poi ci sono periodi che nemmeno le tocchiamo, solo acqua. E poi mangiando. Mangiando bevendo, bevendo mangiando. bello, bello scemo, sì. Lasci bene, bello bene. Ah, sì, oh. Paletta per un buon quello, vino. Fino a bene una data. Così che la debrega se la cocchi prima. Beh, tanto non ti ridate, non c'è che le imbiaggheggi, che non è così la canzona. Allora non mi sembra più piena lì la tazza. A me non c'è bisogno di pianare la tazza. Pure senza pianare la bueva andavano a stessi. No, ma tu a quella di marina devi pienare. Tu fai la vita e mira la tua e piena la sua. Ma dico, non c'è bisogno di pianare la tazza. Già, non c'è problema, paghi su. E poi di incominciare i giochi. Facendo facendo. Ma chi? Canto sei maro. Sì, grazie, così. Così è benissimo. Ma chi se vi saluta se passa in quelle T perché è arrivata la medicina. Bene, ciao, grazie. Non lo sento più. Anche per lui. Ma chi? Non ti sentivamo, eh. Non so cosa hai detto. Ehi, forse siamo sopraccavallati. Ho detto che sto passando in quelle T perché devo prendere le medicine. Vi ho salutato, a domani se coincide. Ciao Luca, buona serata, saluta la signora. E anche ride con le patatine per Graziano. Saluta la signora Graziano, a domani. Ciao ciao, riprendi. Ehi, ciao Bacchiglio, buona cena, buon tutto. A domani, alla prossima. Salutalo Paolo e a Bacchiglio. Ciao Bacchiglio, a domani. Ciao, vai Male Luca. Sì, ciao Bacchi, saluto, dai, sono contraccambiato la parte 25, saluta Correa familiare, alla prossima, dai. Ma c'è buon tutto, ciao, fatti sentire spesso, ciao. Luca, ciao Graziano. E guarda, le 9:30. Le 8 su. Ehi, ehi, ma ci hai già mangiato, eh. Vabbè, mangiato così leggero, dai. Io vado a farmi l'insulina, eh? A domani, che poi siamo sposi io e Paoletta, siamo soli soletti, dunque. Sì, vi rubo Paoletta, tanto gli animagni. Aggiungare, tu, canta danza, mi sono arrubbisparo. Hai intesa, canta birbantella. Va bene, ciao, buona cena a tutti e due, ciao Marina, e ubriacalo tu a lui. Io arrivo a un tot e mi fermo, no, lascia perdere. Comunque, grazie a... Vabbè, niente, ci sentiamo domani, ciao, saluta Paoletta anche da parte di Marina. Tu sogna però, grazie a... ormai ha già dato tua moglie, ciao. Eia, ciao, a domani. Però Paolo, me l'hai già dato, la saluti a Edu. Ciao, stavo ammazzando una zanzara. Ah? Che stavo entrando in cucina, c'era una zanzara, l'ho spiaccicata nel muro con la ciabatta. Tutti noi. Va bene, ciao. Ciao, ciao Paolo, ciao, grazie.